sarà come l'arca di Noè, il cane, il gatto, io e te. Partirà, la nave partirà, dove arriverà, questo non si sa. Sarà come l'arca di Noè, il cane, il gatto, io e te. Eccoci di nuovo in studio. E prima di dar la parola al signor Paolo Trevisi, volevo dirvi che come ospite silenziosa abbiamo la signora Lia, che è la direttrice, la fondatrice del Clan Verdurin di San Pietro di Feletto. E così la saluto io per tutti. Benissimo, allora adesso do la parola al signor Paolo Trevisi che ci racconterà un po' di sé, un po' del teatro, quello che vuole, insomma. Ma dovresti dirmi cosa che vuoi sentire da me? Beh, intanto... mi metti in crisi, ma interrogazione bisogna fare bene, ma se no ti metti insufficiente. Allora possiamo interrogarla? Qua sappiamo che l'allievo è di una straordinaria facondia e compagnia, quindi non avesse problemi da sorta. Iniziamo dagli inizi. Ecco, diciamo... gli inizi, allora... Mi nasso nel Prade a Fiera, ogni porta naga era, gli diceva quel tempo. Altri tempi. Tutti comunisti e mi sono nato nel 41, il giorno di San Pantaleon, il 27 di luglio. Però il 27 luglio è una data bella perché il 27 luglio è nato Mario del Monaco, è nato Giosuè Carducci, Alessandro Dumas, tanti il 27, ma soprattutto per non pagare a comare, gli diceva. Ah, ecco. Perché era caldo. E appunto, debutto in teatro nel 46 a 5 anni, perché sul Prade a Fiera montavano un teatro, una compagnia di giro, i Carrara, i Zamperla, queste famiglie che da oltre 200 anni fanno il teatro girando, è vero. E esistono ancora i Carrara, c'è ancora una compagnia, i Carrara si chiama. Qui a Treviso? No, e sono di Vicenza come zona, ma sono tipo professionisti. Un carro di Tespi, una cosa erano, di questo tipo. Proprio montavano coi banchei. E là quella sera dovevano fare Santità di Primo Pio Vesan, che era la vita di Pio X. E Primo Pio Vesan è stato il fondatore e l'ideatore della Banca Cattolica del Veneto. Ah. Ed era, si dilettava anche a scrivere commedie. E siccome in quegli anni andava di moda questa cosa del Papa Sarto, aveva scritto Santità. Al primo atto della commedia, in tre atti, il primo atto era con il Papa bambino, quella famosa che si metteva per risparmiare la suola delle galosce e del legno sulle spalle, è vero? Quindi il bambino, naturalmente le compagnie, Zamperla, facevano tutto in famiglia, avevano un bambino, solo che aveva 40 di febbre, poveretto. Siccome vicino, proprio di fronte al teatrino che montavano, c'era l'asilo dove noi andavamo a Fiera, sul Pra, e si andò a mandare la madre superiore, mi ricordo, superiore a Pulcreria, rossa dei capelli. Dio mio, che nome, Pulcreria, pensa. Ma pensa che mi ho fatto la prima e la seconda elementare, tutto sempre quei memune che fino alla morte mi ho difese e mi subore Dorotea, in guai toccarmi e tutti, a mia suora Nisia era mia maestra, sua Francesca qui a dei Picoi, no cara, e gli era appena finita la guerra, quindi era fame tanta, se mangiava quello che si poteva, insomma. Esatto. E gli ho domandato, ma l'unico sarebbe questo, ma bisogna domandare a sua mamma de Nervesa della battaglia, oh per l'amor di Dio, se lo sa il mio uomo, sai donne, no? Il mio uomo, così diceva, insomma, è uomo non uomo, e mi era convinta. Mio padre rientrava il venerdì, quindi non gli era problemi, e mi hanno insegnato la parte, e così io ho debuttato. Ha fatto papà il Papa Bambino. Il Papa Pio X Bambino. Un successo, che non vi dico. E quella è stata la prima iniezione della mia vita. E dopo non mi sono più spostato. Appena che ho potuto, a 20 anni, ho fondato una compagnia che si chiamava I Giovani, famosa. E dopo un po' di anni, allora nella nostra provincia non c'era più nessuno che faceva teatro, anche perché... E che mi ha aiutato quando ho fatto questa compagnia è stato proprio Poareto, che si è morto da poco, che mi voleva un bene, Monsignor Antonio Mistrorigo, che era il vescovo di Treviso. E attraverso Don America. Brotto, che poi è stato parroco di paese, Monsignor Don Giovanni Brotto, che allora dirigeva il Centro Cattolico Studentesco, sono mandati in vescovado e l'ago recita un po' de todero davanti al vescovo e alla mamma, perché viveva anche lei nel vescovado, la mamma di Antonio Mistrorigo. E Monsignor Mistrorigo mi ha messo in mano, allora, parlo del 62-63, 650 biglietti da 1000, tutti però da 500, mi ricordo, qui che aveva quella specie di Oseo con il becco, ecco, e cioè era una cifra, e con quei soldi sono andato a Baseggio. E ho detto, attento, come natore, ho bisogno dei costumi. Ho comprato i costumi per fare il todero, ma ho comprato in più anche per poter fare dopo i rusteghi. E così è partita la compagnia. Straordinario. E dopo un po' qualche anno, verso la fine degli anni 60, che mo tira dentro Gino Cavalieri, che oramai si era ritirato e viveva a Fagare di Piave, a Bocca Cae Alta, diceva, Bocca Cae Alta. E anche la Capodaglio, la Milena, e quindi si sta in compagnia fino a, io sono rimasto fino al 78, insomma, che abbiamo fatto il secondo Goldoni aprendo il teatro di Venezia, il Goldoni di Venezia, col todero Brontueon, con Gino Cavalieri. Ma con Cavalieri la cosa curiosa era che molte volte che si faceva il todero, ne ho fatto più di 400 recite nella mia vita. Mamma mia. 400. Che, sì, che Cavalieri, quando che dice, hanno con mica oggi, già stasera di fare il todero. Cioè, ma dico, Gino, che mi fuori i manifesti? Ah, no, ma guarda, chi ti fa todero, che ti ho sempre fatto? Mi fa sotto figlio Pigri. Sì, ma ti te ha 80 anni, mica ne... No, sta preoccupato. È il pubblico, l'orbetto, se chiamava il pubblico. L'orbetto. I vecchi, sì, i comici. Ma guarda che l'orbetto non se ne incorse, basta recitar Puito. Ecco. A me pare di aver sentito per radio che Gino Cavalieri faceva Gregorio. Ma momento, Cavalieri ha fatto Gregorio in televisione quando sì. Todero era Baseggio, ah, in un'edizione, ma Cavalieri che ha fatto anche il Todero, sempre, quasi sempre, quando lo faceva. Non sì. Non l'ho mai sentito. Che... mamma una mia, volta quanti... in televisione si faceva appunto. In televisione teatro. Registravano negli anni, sì. Fine anni 50, 55, 56, 57, in quegli anni lì, si registravano le commedie, è vero, con Baseggio, Baseggio la Cavazzolaire trevigiana, sì, sì, ricordo, l'altra sì. Trevigiana, la, che è ancora viva, mia amica, che mando un saluto a ai Tony e a Wanda Benedetti, Wanda Tony Benedetti, Barpi, Tony sì. Barpi sì. Questi, questi sì. Erano gli attori della compagnia Baseggio, e quindi è logico che Cavalieri lo chiamavano e lui andava, infatti con Baseggio hanno fatto Se noi semati noi voemo, magnifico Borto e Ciocci. Perché Cavalieri era un grande attore, molto grande, più di Baseggio per me. Perché Cavalieri, sì, perché Cavalieri creava il personaggio. Se il personaggio era antipatico, come Borto e Ciocci, diventava odioso. Il pubblico diceva, mamma che schifoso, quindi quel vecchio maledetto. Si calava proprio nella parte, era bravo, era... era attore, un attore vero. Da fare, sì, certo, Baseggio invece era bravo, ma era sempre Baseggio, sì, sì, lui l'astro più e, tutti, maniera, e tutti attorno, ah, ecco, che giravano gli altri, certo, certo. Mentre Cavalieri invece lui era proprio il personaggio, lui ci teneva molto ed era bravissimo in questo Cavalieri, devo dire. E noi abbiamo imparato molto in quegli anni stando vicino a lui. Perché vicino, cioè io ricordo la prima volta che Cavalieri recitava con noi altri, facevamo, mi pare, i rusteghi a Cimetta di Codogné, che avevamo un attore in compagnia che faceva Fipeto, che è dopo, una volta andato in pensione, si era fatto prete, e che adesso se prete, se parroco vicino a Mota di Livenza. Sì, sì, è ancora vivo, insomma, sì, sì. Sì, sì, partiamo, sì, sì. C'è bisogno di me. Ah, ah no, c'è vivo Vittorio, Don Vittorio Battistuzzi si chiama. Ah. E allora faceva il Fipeto e mi ricordo che noi altri si controllavamo nelle battute, no, ti te che sbaglia qua, ti te che... Cavalieri nega, guarda, ah, ma voi altri seude qui che va in cerca come che gave... no cari, mi sbagliarò, io so quante volte che sbaglio, non stemmi mai di perché mi vago avanti io stesso, ecco, ed è già questo, era già, una novità, sì, una novità, ecco, sì, sì. Cioè andare non avanti paludato, il non, pubblico niente. Non deve accorgersi che tu non sai la parte. Ecco. Devi magari improvvisare. Improvvisa, devi fare, e beh, con Cavalieri che mi inventava le commedie intere quando che non si ricordava. Mamma mia, eccezionale. Quante volte. Sì, sì, l'importante è che quello che viene dopo che abbia la battuta, insomma. Sì, no, ma soprattutto io ricordo una volta facevamo a Ridotto a Venezia, dove andavamo di regola, tra i nostri clienti affezionati che avevamo sempre i patriarchi. Però. E io ricordo che lì ho conosciuto anche allora Monsignor Albino Luciani, che poi diventerà Giovanni Paolo I. è Esemio Vedane nel Sir Tita Parun di Rocca. Nota bene che nel 27-28, alla prima mondiale di questa commedia di Gino Rocca, Cavalieri faceva il ruolo di Serafin Cocio, cioè il cocchiere sempre imbriaco, è vero. E Monsignor Luciani sta entusiasta, perché lui amava molto il teatro veneto. E ora Gevignone a fine fanno tutti i complimenti, eccetera. Ma c'è stata una volta che siamo andati a fare La buona madre di Carlo Goldoni. E quando siamo arrivati ai Cavalieri, che era cieco dalla nascita, e che ha domandato a signora Scarpa, che era che faceva i biglietti, come va col pubblico, c'ho bionda, e ora che ha detto, fiacca, caro commendatore, davvero, col mio nome, fiacca, oh, poi amore di Dio, ma aspetta, ma cosa che avevo scritto qua, la buona madre, per forza non viene nessuno, quando viene Siani viene a vedere la buona madre, bisognava scrivere Sior Nicoeto, mesa camisa e il suo amore in cae de loca, e sotto in piccolo piccolo la buona madre, tre atti di Carlo Goldoni. E ora che attaccai striscioni fuori, nell'arco di un giorno esaurito il teatro. Visto e gradito. Sì, e quella volta mi ricordo che a un certo punto mi facevo la parte che faceva Baseggio una volta con Cavalieri, che faceva la parte di una vecchia signora Lodovica vestito da donna, ma bisogna vederlo in che stati. E aveva una figlia questa donna. E ora a un certo punto io scherzavo sto vecchio qua gotta che avevo, e dicevo, come ti chiami sto ciopico, e ora mi diceva il suo nome, Daniela, l'uomo è cacciatore, cercavo di dargli una pacca nel dadrio, no, e ora io scampava e invece in fianco chi era Cavalieri con questa parrucca rossa con una farfalla petata in cima che il me guarda e mi fa l'occhio, mi sbatte le sedie così, e mi dico, signora, come si chiama? E allora si posta tutto anche uno e mi mettiamo e se cade smette il nome. E ora con un nome caro io adesso che io dico sa, inventando io gai in mente beh, a moro del ponte dei Gulli, e noi era mia madre a vendeva seme saiae e cose di paiandre di anguria, ora si è cascata una volta col caino dei folpi in testa, ha fatto una confusione porra che santa donna che c'era mia madre sempre imbriaga c'era. Sì, ma che nome gai, che dice, adesso che io dico un momento, ma non mi veniva in mente il nome, no, e tutti dei quinte che dicono Lodovica, non sento niente, vabbè, e ora è avanti, finché a un certo punto la tosse dice, ma dai mamma, ma non si ricorda perché ha il nome Lodovica, no, che fa Cavalieri? E mi guarda, mi sbatte gli occhi, sorridendo, e mi fa, per gli amici, Lulu. Un applauso in te, e mi fa sottovoce, hai visto c'ho Paolo, ci apriamo l'applauso anche quando che si sbaglia, ecco, per dirvi chi era Cavalieri. Proprio un vero attore. Ho le vertigini, ecco, allora ci fermiamo un momentino mi sono qua per ascoltare la seconda canzone, allora sarà quel che sarà, ecco, cantata da Tiziano Rivale, ecco. Salverei se solo ci fossi tu. C'è la terra, il mare c'è, ma anche quello che non c'è, so che tu lo inventeresti per me. Se anche l'acqua poi andasse all'insù, ci crederei. Siamo noi con i miei problemi e i tuoi che risolveremo e poi sarà quel che sarà, Eccoci di nuovo in studio, sempre col nostro signor Paolo Trevisi. Allora, a lei la parola per il proseguimento del... Ma niente, era così la storia. Cioè, noi abbiamo cominciato a quel tempo, non disse Gesù cioè di sé, prima a quel tempo, nella nostra provincia oramai non esisteva, anche perché venivamo fuori da una guerra, era un po' difficile ricominciare tante cose, eccetera. E io, quando ho cominciato a fare compagnia, nel 63, non c'erano più compagnie, che ce n'erano di storiche in giro per la nostra provincia, quella di Castelfranco, quella di Conegliano, eccetera. Poi piano piano, adesso che io ormai mi sono messo da parte, perché se è giusto lasciare spazio anche ai giovani, chi va avanti, ma io ho visto che sono fiorite decine e decine di compagnie. È vero. Ecco, sì, e questo mi fa molto piacere. E poi io, che ho sempre difeso, vede, io non ho mai amato dire i dilettanti, mi dà fastidio, perché non è vero. È gente che dedica il suo tempo libero dopo aver lavorato 8 ore magari, e di sera vanno a fare le prove, e provano e si impegnano, eccetera. Io mi ricordo un aneddoto quando ero giovane, e allora si faceva un giallo, mi ricordo, e veniva con noi a recitare il custode della Palestra Verdi, che dopo l'hanno distrutta per fare quello orrido tribunale. Va bene. Ricordo, la Palestra Verdi, dove molte volte d'estate arrivava il carro di Tespi di mussoliniana memoria, però venivano i grandi cantanti lirici di quel tempo, nella cosa del Prato, della Palestra Verdi. Bene, e c'era un custode che era Kowalski, Dino Kowalski, nome originale polacco, che parti, vero? Il quale passione del teatro, insomma, io voglio recitare. E il regista ha detto: vabbè, che sei a parte di un cameriere che viene dentro in scena. Beh, per 3 mesi, questo 2 volte alla settimana, veniva a provare per entrare in scena a un certo punto a una mia battuta, e entrava con un vassoio e diceva: la caraffa d'acqua è pronta. E debuttiamo a Roncade, nel teatro di Roncade, che hanno distrutto per fare la strada. Un teatro per fare la strada. A Semo Star, che se meglio non pensare. E allora siamo al debutto di questa commedia, mi dico la battuta, adesso non la ricordo perché si è passata una vita, e non appare in scena nessuno. Allora faccio, come che ho imparato dopo da Baseggio, tosse. E ora, coccane, e intanto mi muovevo e ripetevo la battuta, perché e non veniva fuori nessuno. Oh, mamma mia. Dopo tanti mesi, 3 mesi di prove, sto macaco, dove sei, ho perso. E insomma, a un certo punto mi avvicino, che allora per entrare in scena, che era delle tende di veludo rossa, mi ricordo, di lato, che era il porto, e verso la tenda così, e vedo che se Kowalski è pronto, fermo, Dino, e gli dico: e ora, vieni tu dentro o no? E ora viene dentro subito, la caracqua d'affa è pronta, ma va remingo, ho detto, 3 mesi di prove, poi dimmi la caracqua d'affa è pronta, ma roba da matti. L'emozione, caro mio amico, l'emozione. Il teatro fa anche emozione. L'emozione, comunque, vero. A parte questi esordi giovanili, poi dopo, naturalmente, la compagnia ha preso piede, e io stavo dicendo dei dilettanti, degli amatoriali. È gente che dà l'anima, e guardate che se oggi come oggi ancora sentiamo parlare veramente del nostro teatro veneto, che è il più antico d'Italia, e questo bisogna sottolinearlo, ecco, e farlo capire a tutti. Questo non è scontato che si sappia. Perché vedete, anche il Carducci stesso, che andava a villeggiare a Pieve di Cadore, e che il bibliotecario Monsignor, che non mi ricordo il nome, e che ha fatto vedere delle pergamene dell'alto medioevo, del 1300 e rotti, che lui ha preso, le ha lavorato 2 anni e poi ha pubblicato nel 1895 le Laudi Cadorine. E le Laudi, esatto, Cadorine, con un altro brano della sposa Pavana, va bene, sono i più antichi testi di teatro in Italia. Quindi il teatro italiano è discendente da queste cose, che erano le laudi, antiche laudi che si facevano in chiesa per spiegare i misteri al volgo, che il volgo era ignorante, non sapeva leggere né scrivere, vero? Quindi nel 300 capirai bene. Poi abbiamo avuto purtroppo il padre del teatro italiano, che si chiamava Carlo Goldoni. Quindi iga poco da farne fare e donne nostre solo nel cinema e serve che parla veneziano. Iga da venire a ripetizione da noi altri veneti, anche grande. Se la nostra cultura hanno cercato sempre di affossarla va bene, ma la verità che devono sapere tutti è questa. Quindi è inutile che noi diciamo, allora, le compagnie amatoriali, che oggi si raccolgono molte sotto il nome della Federazione della Italiana FITA. Va bene, sono quelle che hanno mantenuto in piedi il nostro teatro, e questo è un grande merito che loro hanno, secondo me. Ecco perché io li ho sempre difesi, anche se bene dopo io professionista, ma sono passato attraverso questo passaggio, diciamo così, che non rimpiango per nulla. Con l'amico ho tirato su tanti allievi, bravi e giovani, non più giovani, ma insomma abbiamo lavorato, abbiamo fatto tante commedie, qualche un decina. Un segno di testimonianza di un'arte che non deve morire. So che ultimamente la vostra compagnia ha fatto i Recini da Festa, mi pare. Sì, abbiamo girato con i Recini da Festa fino a circa un anno e mezzo fa, dopo ho smesso. E abbiamo però girato parecchio con i Recini da Festa, e mi ricordo, e ne parlavamo, che nel 71 abbiamo ricordato proprio la morte di Riccardo Selvatico. Vedi, Riccardo Selvatico, che era figlio di una famiglia medio borghese veneziana, è stato il primo sindaco di Venezia. Lui a 41 era nato nel 1849 ed è stato a 41 anni, è stato nel 90 il primo sindaco di Venezia. Va bene, è stato 5 anni sindaco. Quando se n'è andato nel 95 aveva fondato la Mostra d'Arte Internazionale, la Biennale che ha affidato al suo amico Fradeletto come direttore, va bene, ed è un'istituzione che è ancora in piedi dal 1895. Prestigiosissimo. Questo è un merito di Riccardo Selvatico. Lui poi, lasciando il comune, si è ritirato a Roncade, aveva una villa che si chiamava Villa dell'Orso, era una cheba con un orso dentro, va bene. Lui aveva due figli anche pittori, Lino Selvatico e Giuseppe, quindi non una famiglia altro che bravissimi, hanno fatto mostre magnifiche, ma oggi comprare un quadro Lino Selvatico che vuole svariate paanche, che dico me. Ecco. E lui ritirato si a Roncade, prima è stato fatto senatore onorevole, insomma, ma non che comodava tanto l'aria di Roma, che se tanti che non che comoda, e usa mio via e se a ritirare Roncade, ed è diventato un consigliere comunale di Roncade. E nel 1901, il 21 agosto, in una riunione di consiglio, se ga inrabbia perché volevano costruire una scuola per bambini in fianco al mattatoio comunale, e l'uno voleva, e ai ha fatto un baruffon, se ga ritirama e ga ciapana inviata, così arriva a casa e ga stecchito e morto, tirato le cuoie. A 51 anni è mancato. Questo era Riccardo Selvatico. Nel 71, con il sindaco di Roncade di allora, che non stiamo a domandare il nome, che non me lo ricordo, ma sulla scalinata della villa abbiamo ricordato Selvatico. Eravamo io con Gino Cavalieri, eccetera. E Cavalieri, dopo che ho poesie, adesso non mi ricordo quante, del Selvatico. E alla sera, dal prete, che era Don Giuseppe, che dopo si è mio Sant'Agnese anche, che adesso è su sul Monteo Piovan, Ravanello, ecco, da Driola il campanile, era una sala teatrale, e abbiamo recitato i Recini da Festa per ricordare il Selvatico. Ecco del Selvatico, che ho avuto tutto quello che vuoi sapere. E Giacinto Gallina? Giacinto Gallina ha avuto il merito, era piagnoso. Poareto, ma d'altra parte lui era più antico del Selvatico, e il merito di Gallina è stato quello di riproporre il teatro, perché era morto oramai il teatro veneto, si era spento nell'Ottocento, andava avanti sì qualche grande attore ai primi dell'Ottocento, però con Gallina risorge, ma non a Venezia, perché i veneziani si sono fatti così, tutti quanti perfetti, e lui ha debuttato a Trieste. E con Trieste ha fatto più di qualche premiere delle sue commedie. Poi dopo ha avuto dei momenti alti, come per esempio Senterefada, queste commedie qua, Il moroso de Anona, e La chitarra del papà, queste commedie che però erano sempre con tanta mense di cose. Ecco. E su questo filone si innesta Riccardo Selvatico, che a 21 anni la prima commedia che scrive si è A Bossetta dell'Ogio, e dopo il capolavoro i Recini. da festa, insomma, ecco. Sì, sì, sì. Ci fermiamo ancora un momentino. Ma mi fermo quando che vuoi. Per un'altra canzone. Stavolta ci ascolteremo Zingara, cantata da Iva Zanicchi. Perché lo so che ormai non mi appartiene. Guarda nei miei occhi, zingara, vedi l'oro dei capelli suoi. Dimmi se ricambia parte del mio amore, devi dirlo. Eccoci di nuovo in studio e diamo di nuovo la parola a Paolo Trevisi per un'altra tranche di questa affascinante avventura del teatro. Veramente. Sì, ma questo era il Sanremo giusto. Sentivimo cantare, le parole erano comprensibili, va bene. Non effetti speciali. Non bisogna, non occorreva avere Celentani che veniva a farne la dottrina, eccetera. Quindi questi cantanti Villa, sì. Questi, sì. La mia amica Nilla Pizzi, che abbiamo cantato anche in duetto, mia Nilla Pizzi. Sì, ieri mi fiamo imbriaghi, ma comunque. Sì, a Coso, a Calozio. A Calozio Fortello? Sì, a Piavon de Oderso. Ah, a Piavon de Oderso. Sì. È una serata che era ospite la Nilla Pizzi, si parlava della radio per l'anniversario della radio. E dopo, a fine, mangiai bevù e dopo mi intonà. E a Segata Cadrio e siamo cantati, siamo divertiti, ma a parte questo comunque. Certo. Parlavamo del vecchio Sanremo, sì. Che adesso si chiama la canzone italiana, se più che altro una canzone per Ascari, mi non capisco una parola. E sempre, la musica è, che te metti a uno o un altro, e il fondo è sempre tu, non si capisce più niente. È finita, la melodia non esiste più. Non c'è più la canzone melodica. Basta, è finita, è un'altra epoca, mi sarà perché sono vecchio. Ma insomma io che si può. Sì, il sole sta casa. Ancora al passato. Comunque, tornando a noi, sì. Ecco, questo era l'avventura della compagnia I Giovani, che naturalmente poi crescendo, a un certo momento, quando Baseggio ha deciso di sciogliere la sua compagnia, noi ci siamo trovati con Baseggio nel 65 ad Asolo, con la regia di Maffioli. Abbiamo Beppe Maffioli. Abbiamo messo in scena, cioè lui ha messo in scena, abbiamo fatto La politica dei villani di Domenico Pittarini, poeta di Ancignano di Sandrigo, una frazione di Sandrigo, ed era un farmacista di Sandrigo, il quale aveva la penna bella da poeta, scriveva naturalmente per i matrimoni, per l'arrivo del Piovan, che gabbia la osse forte co fa un toro, eccetera eccetera. E La politica dei villani è stata scritta nel 68 868 all'indomani dopo un paio d'anni, dell'annessione della nostra regione al Regno Italico. Cioè quando si viene fuori il detto staimo meglio con staimo peso. Perché? Perché? Allora. Sì, perché con l'arrivo di Vettorgio, Vittorio Emanuele, i contadini si trovavano senza i trattori che erano i figlioli, perché si andava a fare il servizio di leva obbligatorio e magari li mandava giù a Napoli, giù per Sicilia. Regno delle due Sicilie, ecco, ha capito. E quindi lui aveva scritto, sentendo il polso dei suoi contadini, che a sonde d'arghe, perché poi lui era farmacista, si è trasferito a San Piero in Gù, e a San Piero in Gù dava tutto a credito e nessuno pagava più, ho capito. E a un certo punto dovevo dire basta. È emigrato in Argentina per poter pagare i debiti che aveva contratto per dare a roba ai contadini che gli faceva peccare, che aveva bisogno, il solfato a credenza. Una volta puteva andare dal casuino, ha detto mia mamma che assegna, lui che era i libretti se scriveva, e dopo un mese che non vedeva scherzo, il casuino gli dice a tua mamma che mi non segno più, e ora mia mamma ha detto che se tenga in mente. Ecco, che assetegna in mente, ecco, lì a ride, perché anche lì aveva bottega una volta e si ricorda queste robe. E il libretto sporco di farina praticamente. Ed è unto. Ma d'altra parte, vede caro, erano tempi che finita la guerra eccetera tutti si conoscevano, fiducia. Maria, credo cicchera di riso che domani torno, gai una cicchera di zucchero che sono restata senza, adesso vive nello stesso palazzone, stesso pianerottolo. Non si conosce nemmeno. Eravamo una comunità, siamo diventati un insieme di individui. Tutti i fatti propri, ecco, questa è la verità. Comunque, sì. A parte nei questo, condomini specialmente è una cosa. Un dramma. Ecco, a parte questo, quindi, con Baseggio nel 65 lui è venuto anche lui ad Asole, faceva serata d'attore, da solo con Giorgio Gusso che lo aiutava, faceva vari brani. E là che mociacoea. Nel 66 ho detto, ma la compagnia ha detto basta, sono stufo, non posso più. Non era vecchio, perché guardate che Cesco Baseggio era nato in aprile del 1897 a Treviso. Treviso. Lui è nato a Treviso, sì. Perché il padre suonava il violino ed era in orchestra al Sociale, che allora si chiamava Sociale di Via Garbizia. No, il teatro comunale. Si chiamava Teatro Sociale in quegli anni, fine Ottocento. Il padre suonava. La moglie del professore Baseggio, ormai ottima e pronta quasi al parto, si veniva a trovare suo marito da Venezia. E qua è come Maria, quella volta che è andata a depositare i nomi a Betlemme, è venuto il momento ed è nato. E ora il luogo ha scritto a Treviso la denuncia di Francesco Baseggio. E dopo tornai a Venezia, mamma, andai a scriverlo anche a Venezia, ma era già passato qualche giorno. Lui è nato qui a Treviso. Ora che ho come è nato qua, mega, ho bisogno così e così. Bene, vieni a Roma, se mettiamo la cosa. E ho preso tutto il materiale, che erano oltre 350 costumi, scenografie, con un camion sono da su. Sì, guardare che non ho mia schesa, come è andato. Beh, poi mi ha dato, ti do un acconto intanto, e dopo pagherò un po' quella volta. Benon. Questo era il 70. Purtroppo nel gennaio del 71 era a Catania che faceva la regia dei Quattro Rustichi di Volferrari all'opera. Ecco, Baseggio è morto. Ma grazie alla conoscenza asolana liaison tra noi altri, è vero, sì. Che dopo lui mi mandava delle lettere, mi stimava moltissimo, diceva, anche Cavalieri diceva, Paolo Trevisi, passionale entusiasta del nostro teatro che per mezzo suo spero non muoia. Non avrei potuto dire meglio. E allora queste cose che si sono succedute, eccetera, si sono protratte con vari giri, come dicevo, abbiamo inaugurato il Filarmonico, e poi abbiamo fatto il Todero al Goldoni appena aperto, e nel 78. Poi Cavalieri ha voluto ritirarsi e si è ritirato alla casa di riposo di Bologna per artisti. E mi ho detto, immagino cosa vado a farla, che se tutti quanti ai serve degli attori, no, che sei gli attori. Ma che sei la mia amica Isabella Riva, che era più vecchia di lui. E così è stato. Dopo circa un anno non l'ho più sentito, un giorno sono andato a trovarlo, con mia moglie non parlava neanche più, era sotto Sky che dormiva, perché non lo poteva fare Sky perché era orbo da nascita, non che vedeva niente, proprio niente, niente. E allora, e come faceva a muoversi sul palco? E se muoveva andava a vedere prima e dopo tornava. Ho capito, sì, sì. Ho capito. E per memorizzare la parte come tutti i grandi. Lui scriveva con un occhio, perché con un occhio mappettava sul quaderno col naso, scriveva. E o leggeva, perché leggeva un libro al giorno quasi, Cavalieri. Allora, non era mica un seggio, ma grande cultura, Cavalieri. Sì. E così, allora mi ha fatto un strucco al cuore. Sono in mio casa, sono da chiamare Bernini, che allora era presidente della regione Veneto. Sì. E dico, senti Carlo, dico, sono da così e racconto il fatto. Come fa? Prendi la macchina, vai a prendere Cavalieri e lo porti a Palazzo Balbi, a Venezia. L'Alga organizza tutte le televisioni e radio, che erano i giornalisti, e Cavalieri dice, ma mi voglio stare, ma no, adesso dove vado? Mi addormento, sta preoccupate, Gino. E Bernini dove ha combinato e lo hanno sistemato in casa albergo. Sì, difatti a Treviso, mi ricordo io che era casa dove albergo. Dove sta fino alla morte. Sì, la morte, sì, sì. Che è avvenuta abbastanza tardi. Beh, lui è morto a 98 anni. Appunto. 98 sì, anni. Sì, sì. Lui era classe 1895. Ricordo il funerale di Baseggio, che finito il funerale, ho convinto a venire al funerale perché non voleva venire. Ecco, siamo usciti, tutti si è stretto attorno a Cavalieri, autografi, perché ormai era l'ultimo che si era restato. Sì. E era, a un certo punto, che era anche alla riunione Umberto, si avvicina la Toti dal Monte, che nessuno l'aveva conosciuta, perché aveva una scuffia dell'ana di Angora in testa, e pareva una calza rotta ingroppata, e un par di occhiai che pareva una bicicletta neri. E io dico, De Gennaro, al 23 De Gennaro, chi sei che la conosceva? È piccinina e aspenseva qui come Gino, Gino, e si gava. E Gino ha detto, chi sei qua? Perché la te si dito, ti dimmi, cara, dimmi, ciao Gino, cosa dito che ti ho visto il povero Cesco? Ciao, ho visto, mi dai cara coraggio sotto a chi tocca. Perché? Perché la Toti era del 93, 2 anni più vecchia del Cavaliere, no? Mai perso, una freccia, sempre pronto. È morto il più giovane dopo, che era proprio nel 97, era un grande Baseggio. Però, ecco. Che belle questi aneddoti, vero? Sono cose di, e queste sono cose di vita, cose vere, vissuta, sì. Cose vere. Nella prima fila della chiesa di San Giovanni e Paolo, di San Zanipoio a Venezia, dove chi ha fatto il funerale. Una chiesa che, dunque, pensate, il 23 di febbraio, freddo da morire, che per entrare in chiesa non si fa tre scaini in su, si fa tre scaini casomai in su, quindi si affossala. Un umido, un freddo da morire. E ieri sulla prima banca, che era il Conte Cini, e Ongo, dopo che era Cavalieri, mi scarpa quello del ridotto, eccetera. E che ufficiava, c'era Monsignor Loris Capovilla, che era il segretario del Papa Giovanni Paolo, Giovanni XXIII, non se ne ricordo. Quindi, sì. E questo era il parterre, diciamo così. E Cavalieri, che non vedete, sia sora vicina a cassa da morto. Chi sei io qui? E qui ho coso. E qui ho. E qui ho. Qui si è serva. Poi è morto, che caro banca in mutande. E dopo qui si è Luisa su nevole. Beh, poveretta, qui che voleva bene. In teatro. Questo era in chiesa. Sì. In chiesa. E quando ha fatto la predica Monsignor Capovilla, ha fatto una predica tutta in veneziano. Ah. E ora Cavalieri mi dice, ciao. Oh. Stiamo attenti, questo qua vuoi fregarne il posto? Sempre durante il funerale, questo accadeva. E poi Conte Cini, che aveva già 90 anni, allora col freddo che aveva sta vioia, che veniva su e sopra la rete in ascensore, e Cavalieri diceva, mamma mia, guarda qua il bambino che può ha detto, mamma mia, e Ongo così, guarda che... dunque, pensa come che si poteva concentrarsi vicino a quella porca che era morto. Cavalieri. Ma se ve conto poco, siamo andati in cimitero, se meglio di no. No, allora ci ascoltiamo adesso. Cosa ascoltiamo, Parona? Tra poco. Ci ascoltiamo la quarta canzone, che è Portami a ballare. Ma mi no, cara, non ballo più ormai. Portami a ballare, portami a ballare, uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte intorno a noi. Lasciati guardare, sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare. Parlami di te, di quello che facevi, se era proprio questa la vita che volevi, di come ti vestivi, di come ti pettinavi, se avevo un posto già in fondo ai tuoi pensieri. Dai mamma dai, questa sera lasciamo qua i tuoi problemi e quei discorsi sulle rughe e sull'età. Dai mamma dai, questa sera fuggiamo via, è tanto che non stiamo insieme, non è certo colpa tua, ma io ti sento sempre accanto anche quando non ci sono. Io ti porto ancora dentro anche adesso che sono un uomo, e vorrei saperti più felice. Sì, vorrei dirti molte più cose, ma sai, questa vita mi fa tremare, sono sempre i sentimenti i primi a dover pagare. Ciao mamma ciao, domani vado via, ma se ti senti troppo sola, allora ti porto via. Saperti più felice, sì vorrei dirti molte più cose. Portami a ballare, uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più. Eccoci di nuovo in studio e ridiamo la parola al signor Paolo Trevisi. No, ma hai detto che vuoi ricordare un amico che... Sì, ma sì. Ne ricordarlo perché è vivo e attenzione. Sì, no. Voglio portarle i saluti del signor Emilio Gallini della sua poeta, sì, trevigiano. Altro che, ecco. Bravissimo. Anzi, andè a comprare i libri di Emilio, che ne sei uno bellissimo che ho presentato, l'ho guardato. E infatti... era Scondicuco. Difatti. Emilio e signora Catti, naturalmente. Sì, naturalmente. Ringraziamo. Comunque, un saluto cordiale. Una bellissima poesia che si intitola Non sarà del vento. Bene, e così intanto la prosa è andata avanti fino al 78, come vi dicevo, quando che Cavalieri si è ritirato, mi sono ritirato anch'io, anche perché cosa è successo nel frattempo? Nel 76 il teatro di Treviso mi aveva affidato per il centenario della nascita di Ermanno Wolf Ferrari, che era morto nel 48, è vero, nel 76, la regia dei Quattro Rustichi di Wolf Ferrari. Sì. Ricordo che le prove si facevano allora al ridotto del Verdi di Padova, che era appena stato messo a posto. È una bellissima compagnia, avevo veramente bella, e ricordo una tavola rotonda che abbiamo fatto per parlare dei quattro rustichi, dove oltre a Antonio Mazzarolli di Treviso, sì, è vero, l'ex sindaco, c'era, sindaco, sì, sì, c'era il basso Nicola Rossi Lemeni, che era stato, sì, un lunardo ai suoi tempi. Rossi c'era il compositore che poi per 30 anni è stato il direttore artistico del Verdi di Trieste, che era il barone Raffaello De Banfield. Poi c'era il librettista del Campiello di Volferrari, opera che era stata fatta, sì, nel 31 alla Scala, 1931, e, anche molto e la prima interprete come Lucietta del Campiello, che era anche la direttrice artistica del Verdi di Padova, che era il soprano Iris Adami Corradetti. E poi c'era anche l'amica Magda Olivero, la quale mando un caro saluto perché ha fatto 102 anni. Personaggio straordinario. Benissimo, mia, sta bello, molto bene. Bene, anzi, bene. La vorrei anche a cantare. Addirittura, è quella che canta Bondì Venezia. No, sì, no, il Campiello, il finale, sì, sì, sì, è l'addio a Venezia, sì, di, sì, Gasparina. Bondì, sì, è quello, sì, è quello. Sì. Bene, tutto questo. Allora, preparo questa. Era il mio debutto in opera lirica come regista. Il direttore era il povero Nino Verchi, che era un specialista perché aveva diretto Rustichi, Campiello, molte volte alla Fenice, e il quale se mio descondò in fondo al ridotto ascoltarmi, e mica che spiegavo a questi come che doveva dire e cantare la battuta. Perché, le movenze, sì, io lo sapevo a memoria perché ho una schifosa memoria per questo. E è rimasto io sono il direttore d'orchestra. Oh, maestro Verchi, senta, ho visto come lei mette in scena i Rustichi. Da oggi in poi io non farò più e non dirigerò più i Rustichi se non c'è lei che fa la regia. Oh, ecco, questo è stato il mio debutto 1976 nell'opera lirica. E abbiamo fatto Padova, Treviso, sì, e Rovigo, e col teatro comunale, eccetera. Poi dopo, nel 77, l'anno successivo, ho messo in scena La Bohème, che aveva fatto la prima volta la regia con questa mise-en-scène, questa scenografia, Sbragia. Papà di Mattia. E quindi, e da lì è cominciata questa avventura. Ma nel frattempo, dal 70, io ero entrato al comunale come direttore di scena, e quindi curavo tutti i contatti dell'arrivo delle cose, scene, attrezzeria, parrucche, scarpe, tutto quello che era necessario. Impegnativo, molto, sì, impegnativo. E nel 73 il maestro Gatto, che era direttore artistico di Treviso, è diventato direttore artistico all'Arena di Verona e mi ha chiamato in Arena. Io ho fatto il mio primo anno di Arena, che ero l'ultimo arcovolo in alto a mandare fuori un gruppo dei comparsi in Gioconda, mi ricordo, eccetera. È vero. L'anno dopo ero direttore di scena dell'Arena e regista stabile. Perché io ho visto uno che sapeva. Infatti Franco Enriquez, che regista famoso, che, sì, che, sì, faceva nel 73, inaugurava col Simon Boccanegra, e nel 74 faceva il Sansone Dalila. Se non che ero Mino faceva, e dico, no, io sto seduto fino a che non arriva Trevisi, perché altrimenti non vado avanti. Perché io arrivavo, non c'era tenore, non c'era, cantavo tutte le parti, no? quindi questo è stato il mio esordio. Una memoria anche musicale, altro che schifosa, poi un orecchio assoluto. Quindi, orecchio assoluto. E quindi ho fatto. Guarda che è una gran cosa per l'orecchio assoluto. E ho fatto in Arena, ho fatto 10 stagioni fino all'82. In Arena. E naturalmente, e intanto continuavo, dopo ho lasciato, perché oramai avevo cominciato anche a prendere in mano il Teatro San Carlos di Lisbona, e quindi non ce la facevo più fare questo mamma e quello, mia. E piano piano quindi ho dovuto lasciare. Abbiamo globalizzato la cultura, ecco, veneta. E sono andato. E a Lisbona cosa metteva in scena? A Lisbona ho fatto 32 regie. Ah. Non stai a dirmi se me ricordo tutte. No, no, mi basta qualcuna. Ah, che dico subito. A Lisbona ho debuttato con Pagliacci di Leoncavallo, sì, abbinati a Suor Angelica di Puccini. Di Puccini, sì. Strano abbinamento. È un strano, no, strano abbinamento. Infatti mi ha detto al direttore di allora, era molto meglio abbinarlo lo Schicchi. Quindi si faceva un'opera tragica e poi due atti, infatti, i Pagliacci, poi lo Schicchi. Schicchi. E i stai contentissimi. Tanto che mi hanno affidato, il giorno prima di tornare in Italia, mi ha dato la partitura, che era Pigranda de Avaisa, di un'opera di un compositore caro, lusitano, bravo, sì, proprio di portoghese, sì, sì. Jolie de Braga Santos, ed era l'autos da barca di Gil, tratto da Gil Vincente, il poeta amico di Erasmo da Rotterdam, eccetera, sì, sì. E ho inventato, ma non sapevo il portoghese, era tutto in portoghese. Allora Gociapà, a maestra dei luci, che era portoghese, Sofio, e mi qua matita la notte, che dovevo partire il giorno dopo, che mi ha dato queste partiture, lo rimediseva e mi scrivevo in italiano sotto. Ho avuto un trionfo. La critica portoghese ha detto: questa regia dell'auto da barca di Jolie de Braga Santos è da manuale e dovrebbe essere conservata in questo teatro tutti gli anni per portare le scuole a vedere il nostro poeta Gil Vincente e la musica, sentire la musica di Jolie de Braga Santos. Dopo anni l'ho rifatta ancora a Lisbona, a questa. Avevo scelto poi come scenografo un pittore famoso portoghese, cosa che io ho sempre fatto, perché anche il mio debutto con i quattro rustichi di Volferrari ho preso Pino Gambino, pittore di Venezia, diciamo, sì, che sì, dipingeva Venezia, ma lui viveva molto anche in Spagna, esatto, e che abitava a Preganzio. A Preganzio, al Gambino, sì, e Giuseppe quando Gambino. Poi ho fatto nell'80 a Treviso il Campiello di Volferrari, 80-81, sì, ho preso un altro pittore che non aveva mai fatto scenografia e aveva 91 anni, si chiamava Virgilio Guidi. E per 8 mesi sono da su e su a Venezia a dire: no maestro, non va bene, mi volto porte qua, perché se tu fa meglio da sta parte, de qua è 3. Allora mi tocca fare, e deve farne un altro, e ha fatto 2 magnifici oli, che non faceva più oli da una vita Guidi, attenzione, ma parliamo di un grande, perché sì, dopo siamo limitati del folpo quel faceva, sì, a sua punta della salute. Però andate a vedere il ritratto della madre, eccetera, i Guidi del 911, e allora vedete cos'era Virgilio Guidi. Però è stata una grande soddisfazione per me aver fatto questo, e anche a Lisbona con Hogarth ho preso per questi scenari dell'inferno, diciamo, di quest'opera, che ha avuto un grande successo. Ecco, Lisbona, naturalmente ho fatto tante di quei regie. Ricordarmi tutte, faccio fare Aida, la prima Aida che è andata in onda in televisione in diretta in Portogallo. La prima volta che Placido Domingo ha cantato in Portogallo, abbiamo fatto nel 90, abbiamo fatto insieme l'Otello, va bene? Mamma mia. E poi c'era le regine donizettiane in ordine, ogni anno una, un anno l'Anna Bolena, l'anno dopo la Maria Stuarda e il terzo anno il Roberto De Vere. Quindi Lisbona è stata... Non possiamo, naturalmente, siamo quasi in chiusura, non possiamo esimerci dal ricordare invece il fascinoso Estremo Oriente. Un solo così accenno, perché poi avremo... È sempre colpa del Portogallo. Ah. Io amo il Portogallo. Mario Soares mi diceva, il presidente della Repubblica, Mario Soares, sì, mi diceva: ti te sì, io dico in veneziano, sì, ti te sì, 51% italiano, ma 49% te sì portoghese. Ed era vero questo, perché io ancora adesso ho tantissimi legami. Bene, a Lisbona ho conosciuto delle persone, degli amici che sono stati carissimi, che poi sono diventati a Macao il ministro della cultura, che mi ha chiamato, e a Macao, che non si faceva, ho cominciato a fare l'opera lirica, un anno, ogni anno un titolo, fino che siamo arrivati a fare il centro culturale di Macao inaugurato, che ha avuto e ho inaugurato il centro culturale in marzo del 99, l'ho inaugurato con il Vascello Fantasma di Wagner, naturalmente, sì, in tedesco, mamma mia, sì, con protagonisti eccezionali, è vero, quelli di Bayreuth, eccetera. Bayreuth, sì, io ho fatto scene, costumi e regia. Bene, e a novembre ho fatto Aida. E con l'Aida di Verdi ho chiuso, diciamo, l'anno portoghese. Dopo 431 anni sono ritornati. Ho le vertigini. Io volevo chiedere una cosa solo. Non siamo in fase no, di... No, volevo chiedere una cosa. Solo... Basta che non mi domanda skate. No. La sua compagnia intanto proseguiva lo stesso? Dal 78 hanno continuato e l'ha tenuta in piedi, devo dire, una cara amica che recitava con noi, che era Liviana Scatolon, che poi è stata sindaco di Milano. Sì, sì. sindaco. Niente, siamo in fase proprio di chiusura. Io devo dire la verità, sono oggi sono frastornato. Però naturalmente lo prendiamo in parola, e certo, la prossima volta avremo ancora. Continuiamo e parleremo d'opera. Straordinariamente bene. D'accordo. Ori, che è una promessa, eh? Assolutamente. Ringraziamo le ascoltatrici e gli ascoltatori per questa particolarissima, straordinaria puntata. E io ringrazio anche il signor Paolo Trevisi, Paolo, che ci ha onorato della sua presenza. Non mi ringrazio voi altri e chiedo scusa agli ascoltatori se io stufai. Non credo proprio. E io ringrazio te, Antonio. Ringraziamo Lia, naturalmente. Ringraziamo Lia che è stata con noi, che penso che sia stata contentissima. Allora, assieme a Paolo, assieme a Antonio, assieme a Lia e anche da parte mia e anche del nostro caro regista Eddie Daici, diamo a tutti una buonanotte. Ciao! Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre.